attenzione, sarà le 10, c'è qualcuno. Cercalo 200 GTL di X Cobra, 200 GTL di X, provalo. Sì, no, già lo conosco. No, ma il Cobra hanno avuto sempre belle modulazioni potenti, bei picchi di modulazione. No, infatti c'è un bel segnale molto forte, sì. Non posso dire niente. Che microfono stai usando? Issa Delta Master Plus. Non strillare perché sono distorci. Tieniti tonalità giusta, senza, ma anche i controlli di toni c'è un po'. No, c'ha il volume, ecco, guarda, così sto abbassando il volume, guarda a vedere come va, se va meglio. Così sei perfetto, eccellente, non toccare niente, da parte mia è perfetta. Scappa, vabbè. Non c'è nessuno questo cavolo in frequenza, scusa un attimino che mi stavo regolando, stavo controllando le stazionarie e ho messo tutto fuori fase. No, il segnale è forte, la radio è pulita, adesso sei perfetto. Facciamo una chiamata su 10, se vuole entrare qualcuno, attenzione canale 10, qualcuno che ha voglia di fare due chiacchiere, siamo qua pronti. Eia, se no c'è sempre il 12 e il 23 che sono, che c'è sempre gente, dai, il 12 è Porto Torres che sta riattivando tutto, e niente, e c'è sempre gente, quando esco dal lavoro ci sono sempre, capito? Adesso ho girato un attimino, non ho sentito nessuno. Sicuramente sono ancora a lavoro, Eugenio forse non è ancora uscito, e anche gli altri sicuramente stanno ancora lavorando, ma come escono già entrano, dai. E perché Eugenio sul 12 qua, non era sempre sul 10 qua? La ruota adesso a Porto Torres, c'è una ruota, capito, che vanno 2, 3, 4, 5 persone sono. La mania di cagliula. Andiamo bene, andiamo, cazzo, robo. Ciao Lu. Ciao Robè. Ciao Lu, e beh. Io sono relax già, relax, sono docciato, mi sono messo in relax. Beh, ma di schiena, passatoti. Di meno oggi, dai. Cosa ho fatto poco fa? Visto che ci vuole anche cosa calda. Nel fondo, sulla capire, mi sono puntato nella schiena. E poi mi sono messo la pomata. E un po' mi ha alleviato il dolore. E magari ha fatto qualche strappo, non è niente. Magari ci ho levato qualche peso, qualche cosa, senza renderti conto. E ha fatto quell'affare lì, ma non è che sia niente di che. Speriamo. Oh, yeah. Esatto, lunedì ci vado, va bene, cosa lo dico, vediamo un po' cosa mi dice. Beh, la prima volta è grosso, Luca, se lo scaldi bene bene, te lo metti dentro un asciugamano e te l'appoggi dove c'è la zona del dolore, vedi che ti fa benissimo. Cosa, Robert? La cura col sale grosso scaldato, l'hai mai fatta? No. Fai quello lì e poi mi torni la risposta. Prendi un po' di sale grosso, un po', mezzo chilo, ne devi mettere in una padella. Lo fai scaldare così in modo che diventi un po' tiepido, non bollente, in modo sia sopportabile 60 gradi, una cosa del genere. Poi lo prendi questo e te lo invogli dentro un asciugamano, lo chiudi in modo che non cada niente fuori e poi te lo appoggi nel punto dolorante e poi mi torni la risposta e vedrai. Più caldo è, più bene ti fa, perché è una cosa, quando c'è una contrattura o un piccolo strappo, quella cosa lì ti dà sollievo e ti mette un pochettino, ti consente di sopportare un po' il dolore. Naturalmente se c'è altre patologie è un'altra cosa, però vedi quando c'è per dire il tuo circolo, colpo d'aria, sai quanto fa bene quella roba. Te lo tieni sempre conservato, poi quando ti serve lo apri, lo scaldi nella pentola, in una padella e poi te lo rimetti. Io ce l'avevo sempre conservato, quando mi sui via tu... Se no si chiama artiglio la crema che fa bene. Ma la crema ti spurchi e tutto quanto, questo va benissimo perché è una cosa naturale, ce l'ho io nel sale e ti dà una specie di tepore che ti irraggia questa cosa, come quando vai dal fisioterapista che ti mettono con le lampade, non so se l'avete mai vista, che hai fatto i massaggi, ti scaldano con quello, e questa roba è micidiale. Poi se c'è uno che sa fare massaggi, meglio ancora. Avanti, chi è? Basso basso, sì, proprio a livello QRM, dove sì? E io, va bene, là. Siamo in rotta, chiama quando l'attacchi. C'è anche Roberto e cose, Luca. Avanti. Ah, vabbè, io lo sentivo bene. Qua è Santiago, la radio non è 5, ma lo capivo bene. Ciao Nicola, ben sentito. 9 da parte mia, prima eri 8. Sì, Santiago 7, ma la radio è bassa. E io, da me è 5, vabbè, me lo scritto il mio, è canimosso. Ma che antenna hai comprato? È schiacciata, rimane, ho capito qual è. Per fare il pezzo di Viruberro. No, qua arrivavi 9 prima. Da me hai migliorato, da 8 a 9 sei passato, Nico. Qua no, qua era 9 e arriva a 7. Boh. Dipende dalle zone forse. Ah, perché non ti metti una boomerang, non sbagli, va? La lasci lì, la punti, la metti in terrazzo e vedrai che vai alla grande. Io l'ho messo alla mia 25, va benissimo. Cappa. Io di radio lo sento un bel basso. Sì, anche io di radio ho bassino, vabbè, ma lui c'ha il microfono normale, la radio probabilmente non amplifica molto. Ah, io lo sento bene, vabbè, forse perché è vicino a me, là. Va bene la radio, c'è per i porci. Da te a 2 passi, Luca, e abita via la Caprera, quindi ti puoi immaginare. Fai, prova, Lupo. Lupo, prova. È più basso, sì, là, ma vabbè, il segnale è quasi simile da me. La radio è più bassa. Ehi, ciao amico, Nico, buon viaggio, dai, condoglianze per il lutto. Chi è morta? Tua madre o Lupo V? KK, dai, condoglianze, dai. Non ce l'hai fatta a vederla, dai, volevi andare e non ce l'hai fatta a vederla. Ehi, ok, dai, buon tutto, dai. Ok, vai di nuovo Luca. Condoglianze anche da parte mia, purtroppo. Casino, poi con questo Covid, mamma mia, qua. Cioè, quanta gente, i genitori non li ha proprio visti. Già l'ho saputo un po' così. Ok, vediamo un po', lasciamo un attimo di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare sul 10, se no riprendi tu Gianni. Speriamo che questa zona bianca la lascino così, che lo faccia entrare gente. Ma dicono che alla fine richiudono zona arancione, mi pare. Ragini per Pasqua, non hai capito che tutta una cosa pilotata, adesso aspetta a Pasqua, inventano qualche storia e di nuovo diventiamo zona arancione. È tutto fatto a punta, poi ci sono le varianti che stanno aumentando, quello è tutto una presa per i fondi. No, sanno manco loro cosa fare, è una cosa difficile da gestire, io lo ammetto, ma non mi dicano che adesso è zona bianca e domani diventa zona rossa, è un casino, va. Uno gliene pesa e decide per noi, per tutti noi. Vabbè, non entriamo in argomenti qua, perché quando arrivo a questo argomento mi burieggio, preferisco parlare di altro, perché ho discussioni tutti i giorni, continue con tutti, per cui lasciamo perdere, parliamo di altro. Quindi questa radio alla grande già. Sì, anche quella tua, che radio stai usando? La mia è sempre la solita, io non cambio mai. Tu sei sempre... con il 44. E io sempre quella lì, è sempre il setto vicino. Ogni tanto cambio il microfono così per farlo camminare, ma la radio è sempre quella lì. Non so se il livello si è sempre cambiato, perché io sono molto lontano dal microfono. Ma infatti. No, ma quanto microfono amplificato va bene, ne hai di quelli da tavolo, che me ne serve uno per il Galaxy? No, ne ho diversi, ma non me li tengo, mi servono, perché ce li ho abbinati per ogni radio. Ogni radio c'ha il suo microfono. Per il Galaxy non c'ha il suo microfono, non c'ha il MB2-5. No, no, non ci sta il MB2-5 qua. Ci vuole un microfono che abbi il coso mobile, che si tieni. Capito, che si abbassi, perché ripiani tra uno e l'altro non ci sta. Ah, ho capito, tipo l'M600, una cosa del genere. E anche saletta va bene, dai. Saletta va bene anche nel gas. Già ce l'ho la statica, c'ho la statica che è un bel microfono, però c'ha un difetto, che praticamente gli hanno fatto il tasto per parlare, che è quadrato, però tu per abbassarlo ti secca il dito. Così, vabbè, anche questo M600 c'ha questo cazzo di tasti quadrati. Poi sono talmente piccola la corsa, secondo me ti c'entra dentro. Esatto. Infatti io evito di usarlo per quello, era molto meglio di M1000 che usavo, mi pare il tipo di una di M1000 del Galaxy che andava bene. Vabbè, c'ha doppio, o se lo metto il DM1000 qua e questo qui lo rimetto dove c'era, dove era nel Galaxy, perché quando usavo il DM1000, cavolo, andava molto bene il DM1000 nel Galaxy. Sì, ma il Galaxy più o meno si adattano quasi tutti i microfoni, se non hai problemi di qualcosa il microfono più o meno esce bene con tutti i Galaxy. No, già va bene, è un bel apparecchio il Galaxy, non c'è niente da dire. Quanti te ne sono rimasti di apparati adesso? 5. Ma di base cosa c'è? Di base ce ne ho due soli, c'è il Galaxy e quello l'Inter, quello che ti ho detto che c'ha due strumenti, il 472 di base. Ma quello nero o quello grigio? Grigio. Ah, ho capito. E poi i baracchini normali, i veicolari cosa c'hai, oltre a questo? Oltre a questo c'ho 3009 e c'ho il coso, il Magnum 980. L'ho usato, non me lo ricordo il Magnum, utilizzandolo, non ce l'ho presente. Il Magnum è quello che io uso in macchina. Non è l'S9? È 980. Non ce l'ho preso, ma tipo le braccia a frequenzimetro? Tu l'S9 presente ce l'hai uguale, solo che le hanno tolto tutti i difetti che c'aveva, tipo il frequenzimetro che andava male, eccetera. Le hanno tolto tutti i difetti, è il nuovo, è la nuova, che adesso non lo fanno manco più. Ok, avanti Luca. A me non mi mai nessuno, per carità, io già non ce ne sono più soldi. E adesso io è uscito quel Galaxy, secondo quanto costa me lo prendo, l'hai visto Roberto, il Galaxy DX? Ma quello che lo sta costruendo uno, ne ho visto uno che le ha messo anche il coso, il monitor, l'hai visto quel radioamatore, una figata, ci ha messo l'amplificatore interno, l'alimentatore switch, poi le ha fatto un monitor tipo quelli di Licom, quelli grossi, gli apparati HF, le ha messo quelli col monitor touch screen, ne ha messo poca di roba, una figata di apparecchio col telefono collegabile al telefono, lo puoi fare interfacciare anche usare in remoto. Sì, lo so, è quello lì, ma non è un radioamatore. Sono praticamente una ditta, non è una fabbrica ma una ditta che sta costruendo tutto loro, hanno fatto anche il frontalino, tutto quanto loro. Sì, quello lì è un analizzatore di spettro, è un analizzatore di spettro. Era quello che ho visto io, molto carino. Ma me l'ha fatto un radioamatore, boh, non lo sapevo. Aspetta, c'è qualcuno che vuole entrare, un attimino. Scusate un attimino Bianca, un attimo. Ah, io che non c'è nessuno, è fantasma. E comunque è bellino, dai. È molto bello, mi piace molto. Ah, poi mi sono dimenticato. C'ho anche l'altro Cobra. L'altro Cobra. Questo è un bel bello lo stesso, quello che c'ha tutto. C'ha proprio il monitor digitale, c'ha il menu eccetera eccetera, si può fare in tanti colori, bellissimo. Ma sei sicuro che lo stanno vendendo quello? Quale? Questo che stai dicendo tu, perché io ho visto era un radioamatore che l'aveva fatto una cosa sperimentale, ha fatto tutto il frontale nuovo, un sacco di cose, ci hanno messo una marea di cose e c'erano apparati, diciamo, di alto prestigio, il misuratore di campo con l'analizzatore di spettro, la cascata del segnale che ti fa vedere tutto il coso, il fascio della modulazione, una cosa tipo un apparato di ultimissima generazione HF. Via, non è un radioamatore, chi te l'ha detto che è un radioamatore questo qua? Cioè è una ditta che fa queste cose, è via sperimentale, poi adesso lo metteranno in vendita. Ma io con l'apparecchio lì secondo me non verranno meno di 1000 euro, perché c'ha tutto il possibile e immaginabile. Io me lo compro lo stesso, anche se costa 1000 euro, mi piace, me lo guido. No, ma hanno fatto anche il frontale nuovo, tutte le serigrafie, una marea di cose. Poi non mi ricordo cosa c'aveva, la possibilità di attaccare due antenne, cioè una cosa completa. Adesso, siccome ho visto la costruzione, proprio il video che lo stava costruendo e facendo le prove, questo qua, c'ha l'alimentatore switch, ha tolto tutti i difetti del Saturn Echo vecchio e ha messo tutta una nuova generazione, tutti i sistemi di coso, di DSP, gli ha messo il sistema per eliminare i disturbi digitali. È una cosa, sembra una radio HF, però ho fatto per la 27. Esatto, ci voleva, perché adesso quello lì lo sai quanti ne venderanno, anche se costa, perché tutti stavano aspettando che uscisse una stazione base come si deve, e questo qui ha fatto 13, se lo mette in vendita lo venderà sicuramente. Io adesso aspetto un po', se lo mette in vendita e guardo un po' se fa difetti, cosa genere, leggo un po' chi lo prende prima di me e poi magari me lo prendo anche io, vediamo un po', faccio il sacrificio e me lo prendo. Prego. Avanti, prego. Buonasera a tutti, Marco. Stavo dando un'occhiata a quell'affare, quella foto lì, no, che poi è un po' sfocata, e dentro ci hanno messo un po' di tutto, no? Si vede una base di baracchino multibanda, multimodo, che non so se sia il Ranger 2950, comunque c'è un baracchino di base, poi ci hanno messo alimentatore lineare, poi c'è una cosa piccola che ha un attacco SMA, una scatolina piccola con attacco SMA, quello potrebbe essere un ricevitore CDR, più tutto il resto, sicuramente c'è lo schermo, vabbè, ovvio, il software gestionale. La mia idea è che sia, diciamo, un baracchino da una parte e un SDR dall'altra, tutto messo nello stesso chassis, capito già, però c'è sempre un baracchino, una scheda di baracchino come base. Riprendi che mi ha fatto entrare. Ciao Marco, mi hai sentito? Scusate, ho risposto al telefono. Ciao Marco, anche a te mi hai sentito, c'è Luca. Scusate, io sono entrato così a gamba tesa, non so chi altro sia. Sì, l'impressione mia era quella, però sai cos'è già? La foto è sfocata, non si vede bene che scheda è. Se tu guardi in alto a sinistra c'è la scheda di un baracchino col telaio, no? La scheda dentro il telaio. Poi si vede un amplificatore già montato, mi pare, nel telaio grande, un alimentatore switching, poi questi vari componenti che non conosco. Però pensavo che fosse una cosa così, un ricevitore CDR più un baracchino, tutto nello stesso chassis, più lineare ovviamente, capito? Vai Roberto. Sì, è così, io ho visto il video di questo, ma è un radioamatore, io so che l'ha fatto un radioamatore, cioè non da solo, c'erano anche degli ingegneri, perché c'era uno che si è occupato di certe cose, l'altro del display, hanno fatto una specie di gruppo, poi non so se lo mettono in vendita, io pensavo fosse un apparecchio sperimentale, perché hanno fatto tutto di sana pianta, dalla parte digitale alla parte, come si chiama, della serigrafia, cioè il frontale, tutto quanto, è un progetto nuovo, non c'è niente a che vedere con Saturn Echo o qualunque apparecchio di simile, è tutta una cosa nuova. Sì, sto parlando in verticale, riprendete, vai Luca se c'è Luca. Ciao Marco, già ho fatto sempre di 1000 euro con la macchina, ma avanti, cazzo, 1000 euro. Oh, bello, già bello, quell'immagine credo che sia fatta al computer, quella statica, quell'immagine statica che si vede già, diciamo che hanno simulato come sarà l'aspetto finale, e comunque guarda che c'è un bel di appentomi, a fare tutto il frontalino serigrafato, poi c'è di tutto, un bel di materiale, quel cavo piatto, flat cable, materiali tutti tipici. Certo che se lo vendono lo venderanno, essendo anche artigianale, sai, devi reperire le schede, la scheda base, no? Per la 27, c'è un bel po' di materiale, più la manodopera costerà un bel po', comunque se uno vuole avere un pezzo unico, quella è una cosa da prendere. Non credo che sia una cosa da mettere in vendita, perché è un lavoraccio per costruirlo, o se lo mettono in vendita un'industria solo lo può fare, costerebbe anche se c'ha tutto, c'ha tutto il possibile e immaginabile, gli hanno messo dentro quel monitor. Ci ha fatto strare questo monitor, c'ha una marea di funzioni, oltre all'esatto di stretto c'ha la cascata che ti fa vedere la modulazione dei segnali e tutto quanto, come gli apparecchi SDR, quelli da computer, lo puoi interfacciare al computer, al monitor, puoi fare tutto quello che fai con HF limitatamente alla banda degli 11 metri. Ho attaccato il 3009, cazzo, come questo apparecchio, una ricezione di tutti gli apparecchi, buca, sul 3009 c'è una ricezione che è favolosa, stereofonica. Adesso sto uscendo col microfono normale, come va? Va bene, il 3009 riceve bene già, riceve benissimo, benissimo. Io mi sono preso da internet una cosa, un po' di roba del 3009, qualche cosa che c'era di ricambio. Adesso ci ricambia. Tipo? Staffa, vabbè, la staffa l'ho data. Staffa, lo svizzero. La staffa l'hai data, cioè? L'ho data, dai, me l'hanno chiesto e l'ho data. Cioè, il 3009 senza staffa? Ho dei pezzi, capito, le cose da internet. No, la staffa c'è nel 2009, questa è nuovo, tanto non ce l'ho. Oh, ho capito già, spiegati bene. Questo non c'entra nulla, Luca, ho preso dei pezzi che su internet, e c'era uno che sta prendendo dei pezzi per gli offrire. Ah, ecco, guarda, c'è lo Smith già. Eh? C'è lo Smith. Sì. Ma lo vendi? Se poi serve a me, questo qua. Cazzo, va. Mannaggia. C'ho quello del typhoon, quello che c'è da Maria, mi sta andando male. Cinchioda, ragazzi, cinchioda, non so perché, boh. Sei con lo Switzer, te lo pago, mica lo voglio gratis. Ne ho due Switzer, c'è anche quello dell'ala 48, se ti interessa. No, quello 48 te lo posso dare anche io, non ne ho. No, no, lì quello del 2009 mi serve, va bene al iPhone, va bene qualsiasi apparecchio. Cavagano. Questo qui invece non è a faro come segnali, gli dai segnali buoni, questo Switzer. Vabbè, non fa niente, già là, non ti preoccupare. Se capita magari un bracchino per ricambi, quello fai sapere. Ia, va bene. Capo, avanti, Marco. Sì, stavo cercando di trovare la foto, mi sa che l'ho anche cancellata. Cercare di capire la base. Dalle schermature, da come è fatto, sembrerebbe un 2950DX Ranger, però non mi ricordo i controlli frontali. Sai quei tastini che ha il Ranger frontali? E vabbè, niente di che. Io adesso rilancio Roberto, tanto stacco, vado a pigliarmi il caffè e rimango solo all'ascolto, ok? Roberto, riprendi. No, questo apparecchio secondo me è molto difficile che lo metta nel commercio, perché costerebbe troppo, ma che non prende un'azienda grossa, tipo la Mitra, le cose così, però lo venderebbero a una cifra esagerata, ma che non lo produci, si mettono a produrlo in Cina a un costo del genere, ma costerebbe un sacco di soldi, perché sembra un HF, ha tutte le cose per dire di un 7003 della ICOMO, non IAESU, 9900, lo grosso che fanno, con tutte le funzioni, però sarebbe troppo esagerato. Io non credo già che quella roba la mettano in commercio, perché a parte non ci sarebbe mai scatto, perché ormai la CB è morta, non ve nessuno. Chi è che fa degli investimenti in cose del genere? No, è vero che è morta. Invece sta nascendo di nuovo in certe città, io ho letto dei forum, in certe città sta rinascendo, Roma, tanti posti stanno facendo anche i contest, c'è un sacco di gente che sta rientrando. Magari è morta qua a Sassari, ma perché cioè, si sa, no? C'è gente che entra, che solitamente siamo insuliti, però in altri paesi, per dire Porto Torres ha fatto un canale a sé, 12 che si trovano tutti lì, ha riaperto la frequenza lì a Porto Torres che non c'era più nessuno. Diciamo che stanno apprezzando, specialmente con questa storia che puoi uscire poco, eccetera. Si sta ripristinando tutto. No, magari qualcuno rispetto all'anno, a due anni fa, magari qualcuno potrebbe essere entrato per il fatto del Covid, che c'è più tempo libero a casa, eccetera, eccetera. L'anno scorso, ti ricordi, quando eravamo tutti chiusi in casa, sono entrati cani e pulci da tutte le parti, gente che era 30 anni che non entrava, e sono entrati, però è finito tutto lì. E poi, lo sai chi sta andando un bel forte? È quello Cibitocca, anche se può essere una cagata o bello a secondo dei gusti, è pieno, pieno, pieno di gente. Tu si attacchi a tutte le ore del giorno e della notte, c'è sempre gente. Ed è interessante, soprattutto se tu ti colleghi per dire gli Stati Uniti, vuoi fare dei collegamenti, dire, è bello per questo. Io molte volte ho provato a collegarmi di cosa, non hai problemi di distanza, solo che anche di lì sta diventando un'esagerazione, perché ci sono i gruppetti, tutta questa greppa solita, che magari non puoi entrare. C'era qualcuno magari nei canali più alti che riusciva a fare due chiacchiere, però ci sono sempre quei gruppi di 15-20 persone e sono loro e parlano solo loro. No, mi piace, vabbè. A me quando fanno il baracchino mi piace vedere l'apparecchio davanti, illuminato e cose, tutta un'altra cosa, io è troppo fredda come cosa. Poi c'è gente che c'ha la punta sotto al naso, un giorno scherzando ho detto c'è qualcuno in questo canile, ehi, non me l'avessi detto, mi ha detto che quando imparavo a parlare educatamente, questo e quello, insomma va a tenere a far culo, cavolo. Ma non ho detto niente di strano, l'ho fatto per fare una battuta, cazzo, si sono subito offesi e mi hanno subito ignorato proprio. C'è da dire una cosa, il 90% di tutte quelle persone che sono iscritte a quel gruppo è gente che non ha mai modulato, non ha mai avuto il CV, è come per dire mi mettiti Facebook, mettiti WhatsApp, mettiti Instagram, cose così, uno scambio di cose, di vedute, di cammini, che c'è questa cosa nuova, questa applicazione, la vedono come un'applicazione, non come un discorso come la facciamo noi, la radio, magari si fa la discussione, si mette a parlare. Il 90% di quelle persone lì è gente, ci sono gente che ha degli interessi diversi dalla norma, per catturare, per trovare adescamenti, viene dopo che degli enti strana di lì dentro, certi discorsi certe volte, ma anche donne, non solo uomini. Poi ci sono molti camionisti che utilizzano quell'affare lì per farsi compagnia per lavoro, niente da dire, però c'è un bel di gente che proprio lo fa per altri motivi. Vabbè, sto provando un altro microfono, guarda come va. Già va bene, però sei un po' più basso rispetto all'altro. Avanti break. Più basso. Aspetta che c'è stato un break. Avanti il break. Non vuole entrare. Sì, è un po' più basso come livello microfonico. È un po' più meno naturale. L'altro è molto più naturale già. Sì, questo è amplificato, l'altro è normale. Non si sente l'amplificazione. Sì, però già è molto meglio. Non è neanche vicino a quello che c'avevi prima. L'altro rimane più naturale come voce. Confermi. Questa è più nasina, sembra che stai parlando con naso un po', è chiara, 5, niente da dire, però non c'ha confronto con l'altra, le fa 10 a 0. Cappa Marte, da te! Sì, un po' così, già adesso non sto prestando attenzione, stavo guardando quella foto. Comunque sì, in base al display, ai tastini, potrebbe essere proprio il 2950DX come apparecchio base, non so chi di voi l'abbia mai usato, il Ranger, quello che ha la scheda verdolina dovrebbe essere, con le schermature eccetera, sì, quindi un lineare c'ha, l'hanno bello imbottito, sì, comunque, già, ma non si, quello che lo produce è un radiatore, una ditta, non si sa chi lo produce in realtà, cioè se uno lo vuole comprare, a chi deve risvolgersi in poche parole? Sono degli artigiani, hanno stanno facendo questo prototipo, poi lo metteranno in commercio. Sai perché te lo chiedo? Perché mettendo Saturn Galaxy DX 300 watt, quello che è, mi riportava un sito francese e parlava di nostro progetto o progetto, un sito francese. Ok, tutto qui, dai. Adesso non voglio prendere bene spazio. Allora Luca, riprendi, dai, io vado definitivamente in cucina e rimango in bianco, ok, in ascolto. Sento che peraltro sta entrando poco niente, io non sto entrando, sto accendendo, ma sento proprio due o tre persone, sento Gianni, sento Bombo, però tutto il resto mi sembra vuoto. Vai Luca, riprendi. Aspetta, sto cercando uno smitter, se lo trovo. Sembri non ce n'è. Adesso qua è nascosto adesso un altro, così devo mangiare la bestia, dai, riprendi roba. E io no, ma c'è stato un break anche abbastanza forte di segnale, facciamolo entrare di nuovo, se ha avuto problemi, ha chiamato break, avanti il break se vuole entrare. Tutta. Anche la disposizione della manopola dei modi di emissione è particolare, ce l'ha proprio il Ranger, fa da, partendo da sinistra, FM, AM, USB, LSB, C, forse CV, adesso mi corre, PA per ultimo. Dai, riprendete, ciao, bianco per me. Vai già, pezzo sei, ti è rimasto. Io comunque ho visto il video proprio parlando in italiano, Marco, di quell'apparecchio, stiamo dicendo la stessa cosa, ed è arrivato, si chiama solo Galaxy, proprio forse per commemorare quello, ma non c'ha niente a che vedere, è tutta una cosa nuova. E c'è proprio la costruzione, ti fa vedere come hanno costruito i furi, le serigrafie, lo switching, l'alimentatore grosso, gli hanno messo insomma l'alimentatore, non vorrei dire fesserie, ma telefono, scusatemi un attimo, avanti il break. Sono rientrato, per un bar. Avanti Lucrezia. Avanti. Cappa, ciao, buonasera, chi è? Ciao, Massimiliano, doppio rumbo, avanti. Oh, ciao già, allora. Vabbè, tutto a posto. Chi so che è a posto, Massimiliano, adesso lo mettiamo a posto. Mi sto usando il 3009 che ero da un po' che non lo usavo, là. Cioè da un po', non l'ho mai trattato, visto questo qui è nuovo che mi è arrivato, l'ho usato una volta, mi pare. Come sta uscendo di radio? Benissimo, benissimo già, va bene, va bene. Non ha bisogno di amplificato questo, vero? C'è una ricezione a questo apparecchio, cazzo, che è una cosa assurda, è meglio di tutti gli altri che c'ho. No, esce bene, c'ha una bella timbrica, no, non ne ha bisogno già di microfono amplificato, va benissimo. Cava, già va bene allora. E questo qua adesso rimane qua, non ci tocca più. E cosa vuoi toccare? Già andava a Puglia. Kappa. No, io mi solito Galaxy con il Turner. E ha una voce un bel forte hai. È un bel bello. E con questo qua mi dà 1,1 di stazionari, capito? 1,1 con questo apparecchio qua. E con gli altri invece? 1,2. Ehi, vabbè, là. Già si può rimediare per quello. Ma 1,2 è buono, Sì, e la voglia che può. Rientra sempre, diciamo, nel coso della scala che puoi avere questi tipi di stazionari. Se sono 1,2, 1,3 non è che fa niente. Quando sono a 2. Prima infatti, no, ma 1,2, 1,1, 1,2, cioè, va benissimo già, io a voglia. Ma io adesso devo sentire, ho già Andy Capri a vedere se riesce a mettermi in frequenza questo Saturn, quello veicolare. Mi piace, è bello la radio. Aspetta, ci telefoniamo. C'è una persona che sta vedendo un po' di apparecchi, però quindi vecchia era, 40 canali, 34 canali, così. Mi chiamo, non c'è problema, sono qua. Oh, sono rientrato. C'era un break poco fa, due volte che chiama, che brecca, però non ho capito se vuole entrare o non ha gara. Avanti il break. Che avanti. Oi, ciao Robè, buonasera. Tanto, sì, c'erano Gianni, poi ho sentito di suggerito Massimiliano, c'era Luca e Marco. Poi abbasso il pari di tutti. Il pari di so. Hola. Buonasera, come va? Tutto bene? Diciamo di sì, dai, ho acceso 10 minuti, un quarto d'ora, stavamo parlando di questa radio nuova, che secondo me però non uscirà in commercio, ma Gianni ha detto di sì. E che radio è? Io mi sono appena arrivato, adesso fra un po' mangio, mi sto sfogliando. No, hanno fatto il Saturn Echo, però sono un gruppo di radioamatori, ingegneri, elettronici, però Saturn Echo fatto con la componentistica attuale, con tutti gli alimentatori switching, un sacco di cose, analizzatore di spettro, touch screen, col monitor, eccetera. Una radio ti sembra uguale a quelli HF di ultima generazione, però per la banda cittadina. Io penso che questi una cosa esagerata se si mettono a produrre una cosa del genere, perché c'ha tutto e di più. C'è anche sistemi di filtraggio digitale, DSP, c'è una varia di roba. Cappa, non so che cos'è. Andiamo a vedere. Bene, mi senti? Oh, vabbè. A buia, forte e chiaro. Cappa, dai. Beh, io scendo giù a mangiare, ci sentiamo dopo se coincide, dai, sono appena arrivato a casa, giù bene a bocciare un bevi. Sì, anche io adesso vado da un'altra parte, dai, saluto a tutti, dai, se c'è qualcuno poi che sta ascoltando. Ciao ciao, Anto, già ci sentiamo, ciao a tutti. Capo, dai, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao ciao, anche a te. Ciao già, ciao a tutti, io vado. Ciao ciao, Greg, Robe. Oh, dimmi. Mi senti? Sì, dimmi. Vai là per salutarti, dai. Ho già, ti ho risposto. Ah, ciao Massimiliano, stavo chiudendo. Ci sentiamo alle prossime, dai, che mi hanno chiamato. Ciao ciao, ciao Massi, ciao Gianni, Luca, Marco e eventuali amici qua su noi. C'era qualcuno che stava chiamando Brett, anche forte, un paio di volte, però non è entrato. Sono riuscito a farlo entrare voi. Ciao a tutti di nuovo. Ehi, ehi, ciao ciao, ci vuoi entrare su un occhio. Avanti Luca, mi senti? Ma Luca adesso sta facendo cosa? Marco? Ehi, ero in cucina. Ciao Massimiliano, e poi è passato anche Bombolino, sì. Stavo dando un'occhiata a quell'affare di cui Gianni è innamorato. Certo, è un pezzo unico quello, è quello. Se lo dovessero vendere se lo fanno pagare un bene. Ma stavo notando che sembra un Ranger dentro, più un ricevitore SDR, dalla scheda, dai comandi frontali, dalla manopola delle bande, un 2950, un 2970, ma presumo un 2950, poi c'ha il, come dite, aggiunto c'ha il, la scarpetta, come si chiama? Il lineare, mi. Sì, sì, no, vabbè, ma a me non mi interessa, guarda cosa c'è. Guarda, quella radio se la mette il commercio non la fa pagare meno di 800 euro, minimo 800 euro, ma poi è un prototipo, capito? Quindi magari fanno quella e basta, poi magari se va male, non troppi pezzi, nessuno te la aggiusta, è un casino. Ah, che poi magari le cose base sono sempre quelle, ci sarà un B300 dentro oppure un RM Italy, poi vabbè la base, la scheda del Ranger, presumo quella verde a me sembra, quella più moderna, non quella con la vetronite marroncina, quella più moderna. Sì, è uno sfizio quello, ma è bello l'affetto che si sono presi a fare tutto il frontalino stampato, magari anche serigrafato, cioè fatto tipo tipografia, mi è molto bello. E poi ripeto, c'è una scatolina con un attacco SMA femmina che sembra una di quelle ricevitori SDR, capito? E quindi come se fosse due cose in uno, più lineare, più alimentatore, più l'ecco, già ce n'è poca di schede, schedine, schedone. Beh, infatti, tu pensa se si dovesse rompere quella radio, cosa succede? Ma ti dirò Massimilia, che non essendo una scheda unica come può essere un ICOM, uno IESU, che adesso si rompe lineare, si aggiusta solo la sezione lineare, in realtà è risolto. Se si rovina il ricevitore SDR, magari è di quelli RTL SDR, lo cambi, 30 euro, poi ci sarà, come dicevo, il software per gestire l'SDR, poi c'è collegato questo display LCD, no, per far vedere la banda, il waterfall, eccetera. Un interessante un progetto, qua mi appare in francese la scritta, però sai, le projet Galaxy Saturn DS continue, vabbè francese, avec 300 watt de puissance, ecco perché chiedevo se era un progetto francese oppure magari una collaborazione di tanti radioattori o tante 16B, roba del genere. Infatti, adesso ti mando una foto Marco, tu mi dici cosa ne pensi? E Claudio è stato entrando, ma ha già traslocato, ha già effettuato il cambio di QTH. Non credo ancora. Guarda la foto che ho mandato, dimmi se ti piace questa cosa, o se l'hai mai vista. Gianni, ci sei, riprendi. E aspetta un secondo, sto controllando questo Galaxy, però non ci vedo un cavolo e devo prendere la posta. Perché voglio vedere se è a manetta al Mikey Gain o no. Eia. Allora, Saturn M, no aspetta, non lo dico il nome, lo guardo solo. Caspita, questo è retro, cioè dalla mappa dei canali, poi quei tastoni frontali, carino, ma questo di che anno può essere? Fine 70? 1976. No, mai visto. Poi sicuramente questo è americano, da noi magari poche ne arrivavano, quindi volume, squelch, SVR, RFG, delta tune, immancabile, oh, in tutti gli apparecchietti americani di quel tipo sempre il delta tune c'era. E caspita, già il display è un bijou di suo, da Smith, scusa, volevo dire. Ma poi hai visto cosa c'è? Guarda cosa c'è scritto nel pulsante rosso. E dietro c'è una presa, puoi attaccare quello per ascoltare altre bande. Sì, allora, sì, quello, come si chiama? Quello per allargare la banda, VFO. VFO. E ce ne sono un sacco, una sporta. Comunque il più spettacolare, a mio parere, proprio d'aspetto, è una cosa, ti prende un mobile di larghezza e quello che c'ha, una parte verticale e una parte orizzontale, sembra un mixer da DJ, e mi pare sia un Cobra. Quella è una cosa folle, è una cosa spettacolare, è una cosa tipo le macchine americane, c'è una cosa gigantesca fuori da ogni standard. Ce n'è uno che è un bel bello, mi piace molto, è fatto da tipo pianoforte, però c'ha frequenzimetro, guarda, è troppo bello, tutto cromato, e gli americani vanno a fare la radio, non scherzano. Però poi i pezzi non li mandano, quando si rompono non ti mandano il pezzo. Anche quello ha ragione. Guarda, io adesso questo S9 già ce l'ho già, forse un 5 anni, una cosa del genere. Si sono bruciati due segmenti del frequenzimetro, non riesco a trovarlo da nessuna parte. Allora io avevo sentito uno che ce li aveva, ma ce li aveva rossi invece che blu. Mi sa che quelli blu li aveva finiti. Però non so se qualche ditta che li fa di concorrenza queste cose qua, perché quando è successo una persona, l'abbiamo mandato più volte fuori, eccetera, e hanno tutti detto che l'apparecchio era aperto ma non arrivava il pezzo, capito? Hanno fatto la richiesta in America e non l'hanno mandato. È vero, un macello. No, ma già il rosso non mi piace, scusa, non, cioè, perde la sua... che poi a me mi serve solo esclusivamente il frequenzimetro, neanche il visualizzatore canali non ha niente, perché è suddiviso, capito? È suddiviso. E vabbè. No, vabbè, adesso mi interessava più sentire, dopo lo chiamo Gianni Capri, come cosa mi dice per questa. E magari te lo sa mettere a posto, perché questi vintage, ti ripiacerà poco, magari ce lo chiedi a tutti. Boh, non lo so, adesso dopo le faccio lo squillo, là. Avanti Marco. Ma Roberto ha chiuso, Luca, tutti chiuso hanno. Roberto ha salutato, l'ho sentito. Sai cos'è, Massimiliano, sono avanti e indietro, io non riesco a stare costante alla radio, sempre mi chiama, ma vado in cucina, vado in bagno, vado al computer, ecco perché alla fine non inutile entrare in ruota, santo come mi chiama. Vabbè, non sono l'unico, già c'è molta gente che si assenta. Oh già, io volevo muovere una critica al 3009, è una cosa di cui, vabbè, mi ero accorto da tempo, però, allora in FM è stretto, un bel stretto, c'è la distensione un bel stretta. Se c'è qualcuno che ha aumentato la deviazione FM è una cosa terribile, te ne accorgi subito. E ti dirò che anche in AM, quando quel giorno famoso che Chiodo era un po' fuori frequenza, cioè quasi tutti lo sentivano bene, lui era un po' fuori frequenza, e me ne accorgevo con l'altro apparecchio President, quasi non me ne accorgevo che era fuori frequenza. Il 3009 è stretto di ricezione, capito? Perché sia MFM tutte e due un po' così. Anche il Cobra è così, il Cobra GT, quello lì è così lo stesso, è molto stretto, quindi se tu sei ma fiaggo di grava di droghio, dicevi come se fosse fuori frequenza, in effetti è fuori frequenza, ma magari gli altri lo ricevono bene perché è più larga e quindi accetta anche se è un po' spostato, capito? Bomboli di droghio, fiaggo di droghio. Sì, ma infine poi vabbè, sempre baracchini sono, capito? Non puoi regolare la banda passante, la larghezza di banda di ricezione. E vabbè, e se no uno si piglia un HF, purché sia un HF magari un po' moderno, che ha la possibilità di spingere la banda passante. Non so se in AM lo facciano poi. Oh, detto ciò, signori, dai, vi lascio in compagnia di bomba, io devo definitivamente staccare, mi organizzo la serata. Ciao Massimiliano, Gianni, Bombolo, Luca, tutti gli ascoltoni, ok? Ascoltoni anche un brutto termine, tutti quelli all'ascolto, ok? Sentiamo. Vai Gianni. Ehi, allora, ciao Marco, ben sentito anche a te, e buon caricabatterie quando lo fai, dai. Comunque questo qui esce con 7 watt, pompa un bel questo qua. Ma è sempre quello della Ranger Superstar 3009, come quello mio. Gava gava, ma qua mi segna, no, aspetta a vedere, no, 4 watt e mezzo, cosa sto dicendo, se stavo sbagliando io la scala. Eia, quello ricordati, è come quello del profeta, è monofinale, no? Man mano che li dai, vabbè, 5, 6 watt, ancora 7, 8, comincia a mangiarsi la radio, poi se lo metti prossimo ai 9, 10 si mangia tutta la radio, cioè io, vabbè, io l'ho lasciato a 4 perché se devi pilotare roba è sempre meglio pilotare in basso, è tutto, poi capirai. Poi ma giù una gana mi già di entrare in tutto, ieri stavo così male che stavo per chiamare il 118. E cosa c'ho qui? Che sarò? No, questo qui è vergine, Marco, come l'ho comprato, non l'ho toccato. Eia. No, così, malessere generale, niente che sia Covid, però è una cosa che con gli anni un po' sta cominciando a pesare. Non mi voglio ripetere, non, poi qua non ne parlo, ok? Dai, ci sentiamo. Ciao a tutti, correti, ciao. Vai Massimiliano. Ciao Marco, ci sentiamo, dai, buona carica, buon tutto. Ci sentiamo le prossime, dai. Saluto anche Antonio e lo rilancio, vai Antonio. Cappa, salutoni Marco, salutoni Attica e Moto. Ci risentiamo alle prossimine. Sono collegati di filica. E già li vedi Antonio. Adesso devo provare l'ambara bacici coccose, tutto a posto. E via, capito? 50 ha avuto dei problemi, ha avuto, adesso devo vedere se è a posto, capito Massimiliano? Cava cava, questo bene va Massimiliano, attaccavo. Via, una bomba già. Vabbè, interessante che funzioni bene, non si sente saturazione, niente. No, io ti sento bene, 9.30 qua, radio 5. Guarda nell'altra marcia a vedere come arrivo. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, 6 è già, vabbè, il Galaxy, già lo conosci, 6, alla fine dello 0. La radio è sempre buona. Sì, la radio è buonissima. Ah, vabbè. Vai a tu, riprendi, va, sei imbollicato, sei, no. Ah, adesso te. Oia, mi sta scusando, va, a tu è meglio che stavi a parlare tranquillo, dai, stai a punirti a sagrappa. Che fai a andare bene, e io ho un altro paio di passaggi, sono rientrato da poco a casa. Ehi, ehi, ehi, già c'è la bella giornata, così no. No, io stavo oggi, ero libero, stavo sbrigando nelle commissioni con mio padre, che si è preso una macchinetta e la sua non va più, là. Hola! Cava cava, andare. La seconda mano l'ha presa la sua. Mi senti? Ho usato. Sì, vabbè, la 600 non si vive più, ha avuto un incidente, quindi... Siamo andati stamattina e si è preso un'altra macchinettina là, quindi tutta la documentazione, bim bum bam, anche perché la piedi se no non casinano spostarsi, quindi l'ho un po' accompagnato là. Ho capito, là. Le cose che si fanno per i genitori, e avanti a tutta. Gappa gappa. 1-1 stazionarie. Tanti batti zeno, se lo fa due, la miseria. Arturo, orecchio che ti ho sentito. Esci un bel bene con questa apparizia. Sto qua. Qua. Ah, non l'ha già toccato nulla. Venga a caduto uno che sblatterende. Ma cosa ne gioco io? Esci a vedere che cazzo di tuo fratello. Oh, via. È stupido. 8.000. 100. Ma che cazzo deve andare così, Tagoglio? Nara, che ti do una mano io, dai. Sei basso il segnale però tu. Vabbè, sono contrattente di pochi batti, sono contrattente. Ma oggi ho compreso una cosa, non mi misura in... Ah, ora ho capito. Boh, oggi ho già compreso. Ma il Nora Mara. Ecco. Così costa 100. 10 al centro per andare bene così. Sì, già ho capito ora, non comprendiamo nulla. E dipende quello che vedi a tu. Magari si cura in di goi per due in buchi. Ah, ma te lo dobbiamo tanto. Cagate, importante c'è. No, mi sto curando in buche, boh. Ah, va fatto guerra, hai detto a 2 secondi che c'ha morbiere. 2 secondi aspetta. Che sono, le gru. No, c'è il profeta al 20 che stiamo durando, forse gli fa. Ah, va fatto guerra, tanto. Ogni tanto magari non si accorta nemmeno che tu sei per questa. Niente, si è passata e va. Cappa a cappa. Ah, che il 20 adesso ci sia questo riposo, la lepra, e grazie se puoi. Ah, intendi, Gilberto. Chi è Gilberto? Cappa, cappa, adesso mi sentite? Ma non ti chiedeva, non ho bisogno, Antonio, ti chiedeva, io ti sento benissimo, ti ho detto, questo qui è l'apparecchio che esce meglio. Ehi, a cappa, dai. Ero proprio in la situazione, ero proprio, no, già esci per furulato, tutti dimmi tu, so che sempre furruggente, ga. Oia, aspetta un attimo. Avanti, vedi come te funziona. Io non ti ho detto che l'altro esce male, ti ho detto solo che con questo per me sei il top. Kk, mi ero prendi di ribrovi, ero prendi, ma adesso ho capito come funziona anche il Rosmet, l'ho capito, ha già attaccato tutto, finalmente va bene, 1-1 di stazionari, 1-1, e funziona. Io vuol dire che funziona. Ah, tu? Ma io la stai usando la 44? No, 87. Ah, questo c'è bene lo stesso. KK. Non anda bene. Non anda bene come te cosa. Il 550 mi piace. Ah, anche questo è bello, eh. K. Hai sentito che pongo a Gigi o a Trotto, anche. Sto combinando i colpi, sto combinando. Bene. Una volta l'ho sentito solo che stavo scendendo troppo forte, forse era e ce l'aveva troppo alto, ma non è che c'è male, forse era regolato male. No, era regolato male, ma già non so che cosa è, già non so. Allora, in occhi mi sono spiegazioni, mi sono dovuto prendere un rosmetro, perché quello là, bisogna farlo controllare, non andava più. E cosa posso? E cosa ti hai preso tu? Vabbè, tanto è solo un po' mi sono detto stazionare, un dettaggio ho preso. Il 203. Eia. Anche io ce l'ho, va benissimo tu, io lo uso per la macchina quello. Va bene sì, caspita, andate. Non è che andate, andate più bene, l'ho provato adesso, è una cannonata, uno è uno di stazionaria. E va che una cannonata. Sì, poi ti segna anche il VAT, se vuoi sapere il VAT c'è il VAT per tre ronde, però c'è tutti e due gli strumenti. È bellino, piccolo ma sincero. Ce l'avevo anche io questo qua. Qualche anno fa l'ho pagato, mi pare, 27 euro, una cosa del genere, da Fusano. Io lo uso per la macchina, quando devo stare tante né macchina. mattina. Mi ha chiamato Fusaro stamattina, non ce l'ho fatta rispondere, l'ho richiamato e non mi ha risposto. Ma invece le buche mi vuol dire che sono arrivati in piede, perché sono andato a protestare, non ho abitato da nessuna parte di piede, buh. E allora sono andato e ho detto, volevo di riportarli, quando arrivavano qui di qualcosa bianco, mi dava qui, in cambio. Però quelli di plastica non si viene a nulla, buh. Ma quelli in telefono stai dicendo? Sì, quelli di telefono bianco. No, quelli che ho preso io erano quelli marrone, battibite. Però non abitavano, avevano questo difetto. Nel 2009 non abitavano. Questi adesso io ho dovuto mettere negli spezzoni quelli vecchi che avevo, tanto quelli abitavano come nello punto abitano. Invece questi quelli là non abitano, girano a volte e non abitano. Capa, no, i miei no già, assolutamente no, non ho mai avuto nessun tipo di problema, dici tu dura fallimentatori, che vuol dire la verità. Sì, ma è nel 2009 solo che lo fanno, negli altri apparecchi no, nel 2009 invece non abitano. Sicuramente nel 2009 c'è una filettatura che di quel tipo vecchio va bene, invece quello del tipo nuovo no. Purtroppo è così, perché l'ho appurato. Sicuramente, non lo so, a me funzionano bene, uguale, l'ho provato anche qua, con questo rosmetro nuovo, non ha dato nessun tipo di problema, non ha dato, la verità ti dico. Va veramente bene, va. Ma tu quali c'è? Con le macchinette marrone? E chi si va giù? Le prese da fusare. Eia! Vabbè. Comunque, io presidente ne dico, l'ho fatto vedere anche ad altre persone, mi ha detto, sembra una cosa strana, ma è vero, rende trappari chi abita e quello lì no. Poi prendo quelli vecchi e abitano tranquillamente, la filettatura diversa, diciamo, sicuramente, magari in certi apparecchi si adattano, nel 2009 che è un apparecchio già di vecchia era, magari la filettatura è diversa, è fatta per il piede di vecchia era. Oh, non lo so già, io lo viaggio provato, ha funzionato, non ti posso dire l'incontrario, l'ho provato su tutti i baracchini che ho, non mi hanno mai dato problemi, mai, la verità ti dico. Meglio così a tu, meglio così, ma io ho appurato questa cosa qua, adesso vediamo, mi ha detto che mi telefonano, quando arrivano noi gli altri me li cambiamo. Oh ragazzi, io vi devo lasciare che mi hanno chiamato giù per cena, no? Se in caso non penso che ci sentiamo dopo, ma se ci siete alla prossima puntata ci sentiamo, no? Ok? Ciao Antonio, ciao Gianni e tutti quelli che stanno ascoltando, no? Io mi stacco. Avanti Antonio. Capa, salutoni Massimiliano, salutoni anche a te. Cioè, salutoni Massimiliano, ci sentiamo alle prossime. Ciao Massimiliano.